Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione in podcast sulla stagione NBA 2017-2018. Iniziamo il nostro viaggio nella Lega di pallacanestro professionistica americana dando uno sguardo alle classifiche ad ovest. I Golden State Warriors proseguono la loro cavalcata vincente dietro ad una Houston che non molla, reduce da 13 vittorie nelle ultime 14 partite, di cui una striscia aperta di 7 gare, e con il miglior attacco e la miglior difesa della Lega da quando è rientrato Chris Paul. Mentre James Harden dichiara ai 4:20 che punta al titolo NBA, partitina un po' nervosetta, l'ennesima per i Warriors, stavolta contro i Pelicans, con un Kevin Durant che si scontra con DeMarcus Cousins, facendosi espellere per la terza volta in stagione, e Stephen Curry che mette male la caviglia nel finale. La NBA tutta suda freddissimo, in realtà sembra che non ci sia niente di rotto né di grave per uno dei giocatori che hanno avviato nel modo più devastante questa stagione. Ad oggi 26 punti, 6 assist e 5 rimbalzi per allacciata di scarpe. In realtà pare che l'infortunio di Curry dovrebbe risolversi, o perlomeno dovrebbe essere rivalutato tra 2 settimane, con la seria prospettiva che possa tornare per le sfide di Natale. Con gli Spurs saldamente al terzo posto e Portland quasi appaiata con i sorprendenti Denver Nuggets, gli ultimi 3 posti della conference sono occupati rispettivamente da Jazz, Timberwolves e Pelicans. I Jazz erano con una striscia aperta a 6 vittorie consecutive alla vigilia della nostra registrazione settimanale, malgrado mezza squadra fuori per infortunio, ottenendo tantissimo dal rookie Donovan Mitchell, autore addirittura di 41 punti nella sfida settimanale contro New Orleans, e che nelle ultime 5 partite ha mantenuto una media di 26 punti per allacciata di scarpe. Nella ultima notte utile alla nostra puntata, come al solito registriamo il mercoledì pomeriggio, Utah ha affrontato proprio quegli Oklahoma City Thunders ancora in cerca di un'identità definita, che stanno discutendo la retrocessione di Anthony in panchina per rivalutare gli equilibri in campo. La sfida si è conclusa 190-94 per Westbrook e compagni, e la striscia di Utah si è fermata proprio qui, grazie a 34 punti, 13 rimbalzi e 14 assist del numero 0. Si tratta della sua 7ª tripla doppia in stagione. OKC sosta al 9º posto di conference, come già detto, al momento in cui stiamo registrando, con 11 vinte e 12 perse. La questione è piuttosto di attualità se guardiamo ai risultati di questa squadra, che malgrado acuti settimanali come avvenuto contro gli Spurs, seppur privi di tanti big, appare notevolmente indietro a livello di risultati. E questo l'abbiamo già ampiamente detto anche nelle puntate precedenti. I due grandi arrivi estivi per i Thunders, Paul George e Carmelo Anthony, stanno avendo rendimenti personali alterni, un po' peggio tra i due Mello, in discesa statistica ma soprattutto a livello di impatto sul gioco di squadra, della serie quando gli arriva il pallone in mano è praticamente azione finita, comunque si concluda. Ma quello che vorrei analizzare sono i rendimenti ed il gioco che si sono lasciati dietro le spalle, nelle squadre che avrebbero lasciato orfane, per così dire. Nel caso degli Indiana Pacers, dai quali Paul George è fuggito per approdare alla corte di Russell Westbrook, l'assenza di colui che per anni è stato il go-to guy della squadra non si è proprio fatta sentire più di tanto, anche perché al suo posto è arrivato Victor Oladipo. Avete presente quel giocatore che lo scorso anno operava ogni pessima scelta prevedibile possibile nelle azioni offensive dei Thunders proprio accanto al numero 0? Bene, quel giocatore viaggia oggi a quasi 24 punti di media, a poco meno di 2 recuperi per gara, aggiungendo al tutto circa 5 rimbalzi e 4 assist per partita. Giocatore più progredito dell'anno? Probabilmente anche sì. Indiana al momento naviga tra l'8ª e la 9ª posizione e può potenzialmente strappare uno dei posti finali per i playoffs ad est. Anche perché dietro alla stella Oladipo c'è un bel numero di giocatori di bellissime speranze che stanno facendo bene. Uno di questi proviene proprio da Oklahoma City e si chiama Domantas Sabonis, che si attesta oltre i 12 punti di media. Non male anche l'impatto di Bojan Bogdanovic, che sta vivendo quella che appare essere la sua miglior stagione realizzativa in carriera, sostando al momento sui 15 punti per gara, mentre sotto canestro anche la coppia di lunghi sta ampiamente facendo il suo. 13 punti e 6 rimbalzi di media per Thaddeus Young, piccola crescita statistica per il terzo anno Miles Turner, del quale, secondo il sottoscritto, si parla sempre molto poco in termini di futuribilità nella Lega. Il ragazzo si stabilizza attorno ai 14 punti e ai 7,5 rimbalzi per gara, ma continua ad impressionare anche per le sue doti intimidatorie in difesa, collezionando 2,4 stoppate per partita. Insomma, i Pacers hanno lasciato dietro di sé un Paul George al momento da 20 punti per gara e da un punto di vista statistico sembrano averlo rimpiazzato perfettamente con il solo rendimento di Oladipo, scozzando definitivamente le carte di squadra ed aprendosi ad un futuro diverso, considerando che al momento, come detto, la corsa a playoffs è assolutamente alla loro portata. Stesso discorso per l'altra squadra, rivale storica tra l'altro dei Pacers negli anni di John Stark, Patrick Ewing e Reggie Miller, i New York Knicks. Una squadra che galleggia attorno ad un lusinghiero 50% di vittorie, che lasciava mille dubbi dopo un mercato estivo che aveva visto partente la stella oramai in rotta con la cinta Carmelo Anthony, proprio verso Oklahoma City. In verità, oltre alle transizioni di mercato, importante sottolineare come dallo scorso anno il presidentissimo Phil Jackson, guru delle panchine, che non ha esattamente dato un contributo positivo su quella o quantomeno sulla squadra della Grande Mela, sia stato definitivamente sollevato dall'incarico di presidente. Con la partenza di queste due figure già citate, comunque le si vogliono vedere, il dato di fatto è che l'area del Madison Square Garden risulta molto più serena e rilassata in questa stagione. Sarà che il pubblico non aveva troppe aspettative su un roster umile e che quindi, non vedendole puntualmente deluse, si è posto cercando di prendere il meglio di quello che poteva arrivare. Di fatto, la New York senza Carmelo Anthony colleziona al momento un record più lusinghiero della Oklahoma City con Carmelo Anthony, e le chiavi della squadra appaiono passate definitivamente ad un uomo proveniente dalla Lettonia, che sembra essere sulla direzione dorata che conduce al castello dei più grandi del gioco. Si tratta di Kristaps Porzingis, che sta collezionando medie pari a quasi 26 punti, 7 rimbalzi e 2 stoppate per gara. Soprattutto il ragazzo ha aggiunto al suo repertorio, fatto di conosciuta agilità a tutto campo, pivot basso e tiro da dietro l'arco, anche la capacità di costruirsi due punti in isolamento dal palleggio. Insomma, un giocatore apparentemente sempre più completo, con ancora grandi margini di miglioramento. Dietro di lui, in molti sghignazzavano rispetto all'acquisto estivo strapagato di Tim Hardaway Jr., uno dei rari casi in cui un giocatore è stato svenduto via per essere riacquistato a cifre stratosferiche dalla stessa squadra. L'ala piccola, proveniente da Michigan, aveva infatti avviato la sua carriera NBA proprio ai Knicks, prima di passare per 2 anni in quel di Atlanta. Rientrato quest'anno, si sta attestando quasi attorno ai 18 punti per gara ed è la seconda opzione offensiva di squadra. Ed invece, per quanto riguarda lo scambio di Melo a Oklahoma City, cosa si sono portati effettivamente a casa New York Knicks? Beh, credeteci o meno, ma a livello di impatto statistico, Enes Kanter non sta assolutamente facendo rimpiangere il rendimento di Anthony. Ora, non fraintendete, chiaramente si tratta di due modi diversi di applicarsi e di guardare al gioco, ma siamo sicuri che quello dell'accentratore Melo facesse bene alla squadra? Kanter viaggia vicinissimo ai 15 punti e gli 11 rimbalzi per gara, e dietro di lui possiamo citare le buone prestazioni anche di Cornelly, McDermott o Quinn, il contributo di Jaren Jack e l'insufficiente, ma potenzialmente futuribile, scelta stagionale in Tilikina. Probabilmente non la miglior selezione che i Knicks potevano fare al draft, ma tutto sommato funzionale ad un sistema che scende tutte le notti in campo nel più grande mercato d'America. E proprio in relazione a questo, i Knicks possono seriamente sperare di riportare il proprio pubblico ai playoffs in una stagione come questa, lottando potenzialmente con i già citati Indiana Pacers. La Eastern Conference di quest'anno, livellata verso il basso che dir si voglia, appare però ogni settimana più equilibrata, laddove i Cavs di LeBron continuano a vincere e quindi a tampinare da vicino i Celtics di Kyrie Irving, ma dietro c'è più o meno una decina di squadre con risultati quasi equivalenti. Se Sixers e Pistons rappresentano le sorprese effettive, i Bucks qualcosa di più che una speranza, Toronto e Washington, due realtà conosciute e sperimentate, anche se quest'ultima sta vivendo un periodo un po' complesso, dietro la sensazione è che Knicks, Pacers, Heat e sicuramente anche gli Orlando Magic possono giocarsi le loro chance fino alla fine in una sorta di testa a testa accumulativo. Vedremo un po'. A proposito di Cleveland, stiamo registrando come al solito il mercoledì pomeriggio e la squadra di Tyronn Lue ha raggiunto la 12ª vittoria consecutiva ed il secondo posto di conference. Avevamo parlato del ruolo potenzialmente marginale di Dwayne Wade in stagione nelle puntate precedenti, al solito sbagliandoci clamorosamente descrivendolo giocatore in declino. È chiaro, non si trova di fronte ad un momento di splendore o comunque all'apice della carriera, ma l'ex Flash si sta mantenendo attorno ai 15 punti per gara nelle ultime 10 partite, proseguendo ad uscire dalla panchina di Cleveland. Si tratta di uno dei cosiddetti segreti di squadra proprio in relazione alla striscia positiva in corsa, salito evidentemente in cattedra dopo la momentanea di partita di Derrick Rose, che ha costretto l'inserimento in quintetto di nient'altro che Calderon, della serie che spesso chiunque può essere importante in questa lega o comunque indispensabile nell'arco di una lunghissima stagione. cambiando discorso, non so se avete già dato un'occhiata al programma natalizio per il 25 dicembre targato NBA, che quest'anno appare probabilmente più ricco di quello già soddisfacente della stagione passata. Sarà forse l'estrema voglia di trovarsi in vacanza? Sarà il ponte dell'Immacolata che inevitabilmente ci fa guardare con più speranza verso la settimana di feste di fine anno? Non so esattamente, ma comunque in ogni modo proviamo a dare un piccolo sguardo in anticipo alle sfide che ci attendono, perché ce ne sono per tutti i gusti. Si inizia nell'arena più famosa del mondo, il Madison Square Garden, dove i Knicks di Porzingis attendono una squadra che quest'anno porta con sé interesse, curiosità ed anche risultati interessanti. Si tratta dei Philadelphia 76ers di Embiid, Covington e di rookie Simmons. Antipasto perfetto per il main event a seguire, il remake della finale degli ultimi tre anni, l'ennesimo capitolo di una rivalità sentitissima. I Cleveland Cavaliers, ospiti della Oracle Arena, casa di Stephen Curry e compagni, cioè i campioni del mondo dei Golden State Warriors. A seguire si ritorna ad est con quella che potrebbe essere la miglior squadra della Lega, i Boston Celtics guidati da Kyrie Irving, che ospitano i Washington Wizards di John Wall e Bradley Beal, altro remake di una rivalità crescente che a tratti non ha risparmiato colpi proibiti negli ultimi anni. Tornando ad ovest e parlando proprio di rivalità, James Harden affronterà poi di nuovo Russell Westbrook per la sfida di Oklahoma City tra Thunders e Rockets. C'è da dire che rispetto al primo turno dei playoffs dello scorso anno dovrebbe esserci qualche nome interessante in più in campo, tipo Chris Paul, Carmelo Anthony e Paul George, tanto per citarne tre. Se tutto questo però non vi è stato sufficiente o non vi sarà sufficiente, c'è spazio per un ultimo sussulto e per guardare quella che potrebbe essere anche la finale di Conference Ovest di un futuro prossimo. Allo Staples Center di Los Angeles si chiude la notte di Natale con i Lakers che ospitano i rinnovati Minnesota Timberwolves. Riuscirà Lonzo Ball a tirare con percentuali dignitose almeno nella notte del 25 dicembre? Domandone per la quale risposta dovremo solo pazientare una quindicina di giorni se Dio vuole. Chiudiamo con un aggiornamento su uno dei momentanei protagonista dell'altra squadra di Los Angeles, i Clippers. È definitivamente esploso infatti il fantamercato su DeAndre Jordan, che con la stagione dei Clippers già ampiamente compromessa sembra in procinto di sfuggire il prima possibile per permettere alla sua squadra storica di ottenere una contropartita dignitosa. Se la settimana scorsa avevamo parlato della remota possibilità di trade con Cleveland in cambio di Tristan Thompson, nuovi scenari e molteplici squadre si affacciano interessate alla cosa. Una di queste è Milwaukee, che potrebbe offrire nel piatto Middleton o Brogdon. Si vocifera inoltre di Toronto, Minnesota e soprattutto Washington. Proprio i Wizards, che appaiono un tantino in frenata ultimamente, anche se nella ultima notte utile per noi hanno battuto Portland senza Wall ma con 51 punti di Bradley Beal, otterrebbero così quella presenza potente al centro che a mio avviso manca loro per puntare a migliorare le prestazioni dell'anno passato. Mentre per quanto riguarda i Timberwolves, partendo dal presupposto che Karl-Anthony Towns è incedibile, l'idea di vederlo affiancare una macchina da rimbalzi come DeAndre Jordan mi fa quasi paura. Ripetiamolo per chiunque ci credesse, si tratta comunque di remoto fantabasket, giusto qualche minuto passando ad immaginarsi scenari probabili seppur ancora distanti. Benissimo, anche questa puntata di NBA Week giunge al termine. Colgo l'occasione al solito per rinnovarvi i nostri appuntamenti, ricordandovi di seguire sempre la nostra pagina Facebook che si chiama NBA Week per aggiornamenti e commenti dell'ultimo minuto. Invece, come al solito, se volete, potete ascoltarci tutti venerdì sera alle 21 sul flusso streaming di Radio Big World, tutti sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio alle 18 in streaming su Radio Valdarno. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo la settimana prossima.